Voci di piccola impresa. Idee di futuro. Di Anna Marino. Benvenuti, questa puntata è dedicata alle idee di futuro sostenibile delle piccole e medie imprese. Ci concentriamo oggi sulle idee sostenibili che trasformano in digital company le PMI di diversi settori: meccatronico, formazione e turismo. La definizione che diamo di un digital business è un nuovo prodotto o servizio o un'estensione di un prodotto o servizio esistente reso possibile grazie alle tecnologie digitali, mobile, cloud, IoT, social, e in questi casi si può parlare di dimensione di digital company che si aggiunge al business tradizionale per renderlo più sostenibile al di là dell'emergenza che ci ha tutti resi interconnessi digitalmente e a prescindere dal settore in cui si opera. E questo è il presente e il futuro delle storie di oggi. Il 1950 è la data di nascita della Poggi Polini con il nonno Calisto, passando per il figlio Stefano ed il nipote Michele, presidente oggi di Poggi Polini S.p.A. Dalle piste di Formula 1 ai cieli, con viti e componenti su misura in titanio e leghe speciali d'acciaio per elicotteri e supercar, la sostenibilità digitale è il segreto, secondo Michele, presidente di Poggi Polini S.p.A. In Poggi Polini abbiamo lavorato negli ultimi 4 anni su nuovi processi di produzione, nuovi processi legati al nostro prodotto core, ovvero viti speciali, viti in titanio, che forniamo sia all'industria aeronautica che all'industria automotive. E quando abbiamo lavorato su questi processi, che oggi sono brevettati, quindi sono processi interni, abbiamo ovviamente spinto moltissimo la parte della digitalizzazione, ovviamente guardando anche la sostenibilità. Per esempio, abbiamo fatto un confronto, adesso la linea è installata, sta funzionando ed operativa all'interno del nostro nuovo stabilimento, e l'abbattimento della CO2 emessa per ogni prodotto, quindi per ogni vite che andiamo a produrre, è di circa il 30% inferiore rispetto al plant storico. Diciamo che tutta la sostenibilità gira intorno a questa vite sostenibile, e ovviamente questa è anche la vostra idea di business che avete implementato in questi anni. In che cosa avete investito? Nel 2010 la nostra azienda è stata colpita gravemente da una crisi del settore. Noi fino al 2010 lavoravamo il 90% per la Formula 1, abbiamo sempre sviluppato, progettato e prodotto sistemi di fissaggio come viti e parti meccaniche di precisione per questo settore. Sono cambiati i regolamenti, abbiamo perso oltre il 50% del fatturato in pochi mesi, e da lì abbiamo iniziato a trasferire la tecnologia, il nostro know-how, l'applicazione delle nostre viti così critiche e speciali verso il settore dell'aeronautica e verso il settore automotive, hypercar. Negli ultimi 10 anni, quindi dal 2010 al 2020, abbiamo investito circa 20 milioni di euro, e questi investimenti sono stati fatti su direzioni, diciamo, a 360 gradi. Abbiamo spinto da subito verso sistemi di ingegneria. Noi siamo molto forti sulla parte di engineering, quindi su tutto quello che sono le simulazioni e la possibilità di poter andare a programmare i nostri centri di lavoro. Siamo un'azienda metalmeccanica, quindi abbiamo delle macchine di controllo numerico, poterle andare a programmare anche offline. Sono programmi, ad esempio, CAD/CAM come Tebis, per i quali abbiamo sviluppato con loro delle soluzioni ad hoc per noi. Sono programmi per la parte CAD come SolidWorks oppure CATIA. Sulla parte gestionale abbiamo inserito Microsoft Dynamics, quindi questo per poter lavorare già sui dati che devono essere sempre puntuali, corretti e aggiornati. Su tutta la suite, anche può essere anche una banalità, ma fondamentale per oggi l'operatività nei vari nostri reparti di Office 365, dove stiamo utilizzando al momento moltissime piattaforme come quella di Teams per poter collaborare. Nel 2019 siamo cresciuti rispetto al 2018 oltre il 35%, quindi una crescita molto importante. Abbiamo raddoppiato il fatturato in 3 anni. Il modello di business è quello di puntare verso la specializzazione, l'eccellenza nei fissaggi critici speciali per il settore aeronautico, ma anche nelle parti meccaniche. La sfida che noi abbiamo nel 2020 quello di avviare un progetto strutturale importante, ovvero creare un nostro vero e proprio digital twin, quindi digitalizzare totalmente i processi industriali che abbiamo creato negli ultimi anni e che sono i processi che guideranno la nostra crescita industriale nel futuro. Ecco, le tecnologie che vi hanno permesso anche di avere lo stesso linguaggio magari anche con altri soggetti come le università, come i digital hub, ecco, queste tecnologie abilitanti quali sono state e con chi parlate, insomma, il linguaggio digitale? Il network è fondamentale, il network è importante per poter essere più veloci. Per le università in primis, lì abbiamo collaborazioni storiche, ad esempio con la nostra Università di Bologna, ma anche le start-up. oggi ci hanno già dato delle opportunità fondamentali che stiamo impiegando in azienda e che ci stanno consentendo anche lato prodotto di poter, come ad esempio il caso delle viti intelligenti, di poter andare a offrire sul mercato qualcosa di assolutamente innovativo. Birex è un esempio spettacolare del nostro territorio, il Competence Center che è nato l'anno scorso, è un consorzio che mette insieme il pubblico e il privato a guida industriale ed è molto importante perché oggi riusciamo a collaborare, entrare in contatto e fare proprio progetti, quindi attraverso queste call, questi bandi che sono pubblici, che vengono presentati dal Competence Center, insieme ad aziende molto diverse anche da noi, ad esempio. Stiamo collaborando con aziende del settore del packaging, del settore industriale, all'integrazione trasversale tra filiere diverse è veramente un grande valore aggiunto. Evolvo.me è la risposta alle sfide, non solo dell'emergenza che viviamo, ma anche del futuro, per aziende e organizzazioni alla ricerca di prodotti e soluzioni digitali innovativi destinati al training, alla divulgazione e all'education. Nasce nel 2019 ed è frutto dell'incontro di tre storie diverse: Otherwise Training and Coaching esperienziale ad alto impatto, Acon, soluzioni digitali, comunicazione e tecnologia sempre all'avanguardia, B-Script, Information Design and Writing, che ha nella ricerca e nella scrittura il suo cuore. Di qui tecnologie e soluzioni per processi di apprendimento sincroni, asincroni, one-shot, continuativi di upskilling e reskilling, per il supporto alla gestione del cambiamento e alla gestione della conoscenza. Un'officina di contenuti digitali in perenne attività, con learning pill fruibili da PC, tablet e smartphone, per trasformare i contenuti strategici dell'azienda in contenuti digitali, con percorsi di apprendimento multicanale. Ci racconta come è nata l'idea sostenibile digitale Francesca Grignolio nel team di Evolvo e Otherwise. Molto vero che ci ha aiutato innanzitutto la visione di immaginare quello che una volta si chiamava il blended learning, adesso si ragiona in termini di learning journey, cioè la possibilità di continuare a imparare, disimparare, rimparare ancora usando gli strumenti e i mezzi che più gli sono affini, quindi mixando soluzioni in presenza, soluzioni online. Ci è stato molto utile il fatto che si è creata da subito una progettazione fin dall'inizio che tenesse conto delle varie possibilità, per cui siamo un po' dei partner delle società che ci chiamano, con cui collaboriamo, e fin dall'inizio, in base ai loro bisogni, riusciamo a pensare al percorso più adatto. L'unione fa la forza e quindi questo è servito soprattutto per moltiplicare, come dire, i risultati, perché nel momento in cui c'è una formazione in aula si aggiunge anche la tecnologia, fondamentalmente è un di più che serve, però è stato anche essenziale in un periodo di emergenza come questo. Ecco, che cosa vi ha aiutato a implementare questa idea e adesso come l'avete messa a terra? Abbiamo fatto già alcuni progetti molto grossi con realtà diverse che stanno continuando nel tempo, e quindi sono progetti in cui dall'inizio alla fine abbiamo scelto insieme quali erano i contenuti più adatti, la modalità per erogarli e quale era la soluzione più adatta dal punto di vista tecnologico. L'altra cosa che continuiamo a fare è offrire i nostri contenuti da catalogo, quindi la library, che in questo momento è molto utile visto che le persone devono lavorare a distanza, per cui la possibilità di continuare a imparare, a sperimentarsi e mettersi in gioco usando sia webinar sia contenuti ad hoc che possono guardare da mobile in qualsiasi momento vogliono, aiuta a essere, come si suol dire, smart in questo momento. Certo, una multiformazione che guarda anche al futuro, non solo all'emergenza sanitaria di adesso, e quindi fondamentalmente può guardare anche, come dire, uno sviluppo futuro. Secondo te questo tipo di formazione è più sostenibile con l'integrazione vita-lavoro che abbiamo? L'idea dei nostri contenuti è nata già da subito come qualcosa che fosse veramente molto veloce, si parla di micro-learning, di pillole di apprendimento, proprio per essere in linea con i tempi che sono sempre più frammentati e in cui le cose che devi sapere cambiano, quindi molto spesso hai l'esigenza di formarti in fretta su qualche cosa e poi di completare magari con dei momenti un pochino più strutturati quello che in quel momento diventava un'esigenza essenziale. Per cui l'idea è proprio quella di essere un supporto immediato per le esigenze più prossime, ma di poter anche disegnare percorsi strategici più a lungo respiro mixando le soluzioni. La nostra idea è quella di continuare a essere un po' anche una sorta di apripista rispetto alle esigenze di innovazione che hanno le realtà organizzative le più diverse. Yuki è una startup innovativa nata nel 2018 e operativa nell'ambito del turismo esperienziale. Quattro soci di Alba, tutti di estradizioni diverse, con passione per tecnologia e per turismo legato ai territori italiani. Proposte di viaggio su misura per turisti, create da esperti locali in base alle loro esigenze. Attualmente sulla piattaforma ci sono 10 regioni italiane attive, 2500 case vacanze, 10 local expert del territorio selezionati e 1600 esperienze certificate inserite. Ma si può ancora crescere in maniera sostenibile. Paolo Taricco, co-founder di Yuki. Il viaggiatore, come lo chiamiamo noi, si interfaccia con il sito web yuki.com e tramite un processo di selezione interattivo esprime le proprie preferenze di viaggio, quindi dove vorrà alloggiare, in che territorio vorrà andare, regione oppure area, le esperienze che desidera fare e se ha bisogno di altri servizi. Qual è il vostro modello di business e appunto come può evolversi, cambiare ovviamente in futuro? Abbiamo ricevuto prima di tutto un fondo, un finanziamento dal Medio Credito Centrale garantito all'80% dal MISE, e questo ci ha fatto, diciamo, partire a livello anche tecnologico, perché l'abbiamo soprattutto spesi in tecnologia. La nostra startup ha una tecnologia di base che è la blockchain, che verifica tutte le recensioni, e poi sull'intelligenza artificiale che una volta selezionato il viaggio viene contattato un operatore locale, un local expert che lo compone. Per quanto riguarda questo momento, stiamo implementando un sistema di sanificazione delle abitazioni come case vacanza prima e dopo l'arrivo del cliente, e questo sarà certificato. Tecnologia e sicurezza in fondo per sentirsi un po' come a casa propria, come racconta anche il nome dell'azienda. Perché è nata dalla combinazione di più parole. Non possevamo inserirle tutte, quindi abbiamo pensato alle chiavi che aprono la porta di casa, la casa vacanza, il cuore, e quindi è nata Yuki. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.